terzo anello, ad alta voce, l'isola del tesoro di Robert Louis Stevenson. Introduzione di Daniele Gorré. Giorgia Manganelli ha fatto notare quanto siano esplicite le prime 10-12 righe dell'Isola del Tesoro di Robert Louis Stevenson. Come cioè, dopo aver letto quel primo paragrafo, noi lettori sappiamo già tutto, diceva lui. Sappiamo infatti il tema del racconto, sappiamo dei personaggi e del protagonista, sappiamo che l'avventura ha avuto buon esito, visto che il protagonista è tornato vivo e può raccontarcela. Di nostro potremmo aggiungere che già prima di quel primo paragrafo le due parole contenute nel titolo dicono la quintessenza dell'avventura, almeno secondo i canoni della letteratura nostra, della letteratura occidentale. L'isola da raggiungere dopo un viaggio rischioso ed ancora più rischioso e battaglie da una parte, il tesoro misterioso da conquistare dall'altra, come a dire Odissea e Romanzi del Graal. Se non che il protagonista, e lo sappiamo subito, non sarà un esperto navigatore o un cavaliere disposto alla morte. Sarà un tredicenne, con pochissima esperienza della vita ed ancora minori esperienze di battaglie e del mare. Concepito come storia per ragazzi, ed anzi in primo luogo come storia per un concreto ragazzo dodicenne, Lloyd, il figlio adottivo dello scrittore, L'Isola del Tesoro, a differenza di tanta letteratura nata per gli adulti e quindi degradata a letteratura infantile, ha semmai subito il destino opposto. Pubblicata da prima puntate su una rivista per adolescenti, lo Young Folks, tra l'81 e l'82, poi con qualche modifica in volume nell'83, l'Isola del Tesoro, pur continuando la sua lunga vita di bestseller per ragazzi, ha impegnato sempre più lettori adulti e anche critici raffinati, attratti dalle pieghe tutt'altro che naive del libro. D'altronde non correva già voce in quegli anni che il primo ministro Gladstone trascorresse la notte immerso nella lettura del romanzo? Dunque, l'attore dell'avventura è per quasi tutto il libro anche il suo scrittore, e questo possiede già di per sé una forza di immedesimazione non indifferente. Lui, il ragazzo in gamba, come viene chiamato, Jim Hawkins, rimasto orfano di padre all'inizio della vicenda, sarà allora inevitabilmente protagonista di un romanzo di formazione, i cui maestri saranno i compagni del viaggio per mare. Cioè i buoni e i cattivi, o se si preferisce, i leali e i traditori, i quali ultimi sono poi i pirati, e in primo luogo il coprotagonista, John Silver, pirata improprio, figura supremamente ambigua, che riunisce in sé i ruoli dell'antagonista, cioè del nemico mortale di Jim, e dell'aiutante, il suo salvatore, e di cui Stevenson giustamente poteva dire: di Silver andavo non poco fiero ed ancor oggi devo confessare la mia ammirazione per quel soave e formidabile avventuriero. Nel rapporto vitale e mortale che lo lega a Jim, che lega Silver a Jim, c'è chi ha visto quell'amoreggiare del bambino col male che è esperienza inevitabile per la formazione della personalità, di ogni personalità adulta. Infatti solo conoscendolo, amandolo, rimanendogli fedele, ma insieme prendendone le distanze, Jim si fa uomo e diviene Deus ex machina della storia. Salva la vita degli amici, conduce a buon fine l'impresa, realizza la giustizia. In altri termini, ne è a tutti gli effetti l'autore. Buon ascolto. Thank you. richiesto dal signor Triloni, dal dottor Livesey e dal resto di quei gentiluomini di buttar giù per iscritto tutti i particolari relativi all'isola del tesoro, dal principio alla fine, non omettendo nulla salvo la posizione dell'isola, e ciò unicamente perché vi è un tesoro non ancora dissepolto, prendo la penna, rifacendomi dall'epoca in cui mio padre teneva locanda all'insegna dell'Admiral Benbow. E il vecchio uomo di mare, dal viso abbronzato e la cicatrice della sciabolata, cominciò ad alloggiare sotto il nostro tetto. Rammento come fosse ieri quando giunse, strascicando il passo, alla porta della locanda, la sua cassa da marinaio al seguito, su una carriola. Un pezzo d'uomo, alto, robusto, di pelo castagno, il codino catramoso penzolante sulle spalle di un bisunto abito blu, le mani ruvide e segnate di cicatrici, con le unghie rotte e nere, e quella sciabolata attraverso la gota, di un bianco livido e sporco. Rammento che percorse con lo sguardo la baia all'intorno, fischiettandosela fra sé e sé, come soleva, per poi scoppiare in quella vecchia canzone marina che doveva in seguito cantare così spesso. 15 uomini, 15 uomini, sulla cassa del morto, io, io, è una bottiglia di rum. Con quella sua voce che sembrava avesse preso la cadenza alle manovre dell'argano. Bussò poi alla porta con un moncherino di bastone da marinaio, e quando mio padre comparve ordinò bruscamente un bicchiere di rum. Quel bicchiere, come gli fu portato, se lo sorseggiò lento da intenditore, indugiando nell'assaporarlo pur non cessando di guardarsi intorno le rupi e sul capo la nostra insegna. «Una baia comoda questa», disse alla fine, «e un'osteria magnificamente situata. Compagnia molta, padrone?» E mio padre gli disse di no, compagnia pochissima per sua sventura. «Meglio così», fece lui, «questo è l'ancoraggio che mi ci vuole». «Ehi, giovanotto!» gridò all'uomo che spingeva la carriola. «Accosta e porta su il mio baule! Starò qui un pezzetto», continuò. «Sono un uomo alla buona, rum e uova al prosciutto e tutto quanto mi occorre. E quel promontorio lassù, per osservar le navi al passaggio. Come dovete chiamarmi? Potete chiamarmi capitano. Ah, capisco cosa vi sta a cuore. Ecco». E scaraventò 3 o 4 pezzi d'oro sulla soglia. «Mi avvertirete quando non ci si sta più dentro», concluse, con l'alterigia di un comandante. E a dire il vero, per miserabili che fossero i suoi panni, e grossolana la sua parlata, non aveva nulla dell'aspetto di un uomo d'equipaggio. Aveva piuttosto quello di un secondo di bordo, o di un armatore, avvezzo a farsi ubbidire o picchiar sodo. L'uomo della carriola ci informò che la diligenza l'aveva scaricato la mattina prima davanti al Royal George, che si era ragguagliato su quanti alberghi ci fossero lungo la costa e, avendo sentito parlar bene del nostro, suppongo io, e descriverlo come solitario, aveva prescelto quello a sua residenza. E fu tutto quanto ci fu dato di apprendere sul nostro ospite. Thank you. Era un tipo taciturno. Tutto il giorno gironzolava per la baia o su per le rupi con un cannocchiale d'ottone. Tutte le sere tornava a sedersi in un angolo della sala accanto al fuoco e beveva punci al rum come niente fosse. Di solito non rispondeva neanche se interpellato, limitandosi a una sguardata rapida e fiera e a un bufunchiamento nel naso, come un corno da segnali. E noi, e la gente che frequentava la locanda, imparammo presto a lasciarlo in pace. Ogni giorno, reduce dal suo giretto, si informava se qualche uomo di mare fosse passato di lì. Da principio ritenemmo che fosse la mancanza di compagni della sua risma a indurlo a tale domanda, ma finimmo per accorgerci che era invece il desiderio di evitarli. Quando un uomo di mare sostava all'Admiral, come succedeva ogni tanto di qualcuno diretto a Bristol lungo la costa, lo ispezionava attraverso le tendine della porta prima di entrare in sala, e finché fosse presente si poteva essere certi di averlo muto come un pesce. Per me, almeno, non esisteva segreto a questo riguardo, perché io ero in certo qual modo partecipe dei suoi allarmi. Un giorno, presomi in disparte, mi aveva promesso una moneta d'argento da 4 penny ogni primo del mese, purché tenessi gli occhi aperti su un uomo di mare con una gamba sola e l'avvertissi non appena compariva. Non di rado, veramente, quando scoccava il primo del mese e io battevo cassa, si limitava a rivolgermi col suo bufunchiamento nasale e fulminarmi con gli occhi. Però, prima che la settimana finisse, non mancava di venire a miglior consiglio e consegnarmi il mio 40 d'argento, ripetendomi l'ordine di stare attento all'uomo di mare con una gamba sola. Come ossessionasse i miei sogni quest'individuo, è quasi superfluo raccontare. Nelle notti burrascose, quando il vento scuoteva i 4 canti della nostra dimora e la risacca muggiva lungo la baia e contro gli scogli, me lo vedevo davanti in 1000 forme e con 1000 diaboliche espressioni. A volte la gamba era tagliata fino al ginocchio, a volte fino all'anca, a volte poi era un essere mostruoso che non aveva mai avuto che quella gamba sola e quella a mezzo del corpo. Vederlo balzare in corsa e inseguirmi scavalcando siepi e fossi era il peggiore degli incubi. In definitiva, lo pagavo ben caro quel mio 40 di salario mensile con codeste abominevoli immaginazioni. Ma quantunque fossi così terrorizzato dall'idea dell'uomo di mare con una gamba sola, ero io quello che aveva meno paura del capitano stesso fra quanti lo avvicinavano. Certe sere beveva assai più ponce al rum di quanto il suo cervello potesse sopportare, e allora a volte si metteva a cantare certe sue vecchie scellerate selvagge, canzoni marine, come se non ci fosse nessuno. A volte invece ordinava da bere per tutti i presenti e costringeva la tremebonda brigata a prestare ascolto alle sue storie o a far coro ai suoi cantari. Erano quelle sue storie che più di tutto spaventavano la gente. Storie paurose di impiccagioni, supplizi sull'asse, fortunali di mare, isole delle tartarughe e gesta e località selvagge sulle coste sudamericane. Stando a quei racconti, doveva aver trascorso la vita tra alcuni dei più scellerati uomini cui Dio abbia mai concesso di solcare i mari, e il linguaggio con il quale narrava codeste sue storie scandalizzava i nostri semplici paesani almeno quanto i delitti che descriveva. Mio padre non faceva che dire che ci avrebbe rovinato l'albergo, perché presto gli avventori avrebbero smesso di venirci per farsi tiranneggiare, soverchiare e spedire a letto battendo i denti. Ma io credo che in realtà la sua presenza ci facesse gioco. La gente sì era sul momento atterrita, ma poi ripensandoci in seguito ci trovava un tal quale piacere. Era un'emozione eccezionale nella monotonia dell'esistenza di paese, e c'era perfino un gruppetto di giovanissimi che ostentavano di ammirarlo, battezzandolo autentico lupo di mare, vero tricheco e simili soprannomi, e sostenendo che era con quelle pellacce lì che l'Inghilterra si era resa temuta sul mare. Thank you. Una volta sola il capitano trovò pane per i suoi denti e fu verso la fine, quando il mio povero padre era già avanzato in quel deperimento che doveva condurlo alla tomba. Un pomeriggio sul tardi il dottor Livesey era venuto a visitare il malato e aveva accettato da mia madre uno spuntino ed era entrato in sala per farsi una pipata in attesa che la sua cavalcatura scendesse dal paese, perché al vecchio Bembo non avevamo stalla. Io lo seguii nell'interno e rammento come mi colpì il contrasto fra quel dottore lindo e brillante, con la sua parrucca candida come la neve, coi vivaci occhi neri e quei suoi modi compiti, e i rustici paesani, ma soprattutto quel nostro lurido, pesante, cisposo spaventacchio di pirata, che sedeva in un canto, inciucchito dal rum con le braccia sul tavolo. D'improvviso costui, intendo il capitano, cominciò a berciare quella sua eterna canzone. 15 uomini! 15 uomini! Sulla cassa del morto! Io, io, è una bottiglia di rum. Nei primi tempi io avevo immaginato che la cassa del morto altro non fosse che quel suo cassone da marinaio che teneva su nella stanza sul davanti. E quel pensiero si era associato nei miei incubi con quello dell'uomo di mare da una gamba sola. Ma da un pezzo avevamo tutti smesso di prestare a quel suo canto qualsiasi attenzione. Quella sera non era nuovo per nessuno, eccetto che per il dottor Livesey, e su lui mi avvidi che non produceva gradevole impressione, perché alzò la testa un istante, piuttosto seccato, prima di riprendere la conversazione su una nuova cura dei reumatismi col vecchio giardiniere Taylor. Nel frattempo il capitano era andato via più eccitandosi al suono della propria musica, finché battei la mano sul tavolo che aveva davanti in un modo che tutti sapevano significava silenzio. Le voci zittirono all'istante, tranne quella del dottor Livesey, che seguitò come niente fosse nello stesso tono chiaro e cortese, tirando vivacemente alla sua pipa tra una parola e l'altra. Il capitano lo squadrò per un poco, batté di nuovo la mano, lo squadrò ancor più bieco e finalmente esplose in una screanzata triviale bestemmia. «Silenzio! Laggiù tra i ponti!» «Avete interpellato me, signore?» domandò il medico. E quando quel ribaldo gli ebbe confermato con un altro sacramento che era proprio così... «E allora, signor mio, io non ho che un'unica cosa da dirvi», replicò il dottore, «e cioè che se seguitate a ingozzare rum, presto il mondo sarà sbarazzato di una fetentissima carogna!» Il furore del vecchio lupo di mare salì al colmo, balzò in piedi, estrasse e fece scattare un coltello a serramanico da marinaio e, bilanciandolo sul palmo della mano, minacciò di inchiodare il dottore alla parete. Questi non batté ciglio. Continuò a parlargli come prima al di sopra della spalla, piuttosto ad alta voce in modo che tutta la stanza potesse sentirlo, ma perfettamente calmo e impassibile. «Se non rimettete in tasca all'istante quel coltello, prometto sul mio onore di farvi impiccare alle prossime assise». Seguì tra loro un duello di sguardi, ma il capitano presto abbandonò la partita, abbassò il suo, ripose l'arma e si rimise a sedere, mugolando come un cane bastonato. «E adesso, signor mio», continuò il medico, «dato che sono venuto a conoscenza che un tipo della vostra risma si trova nel mio distretto, potete contare che lo terrò d'occhio notte e giorno. Non sono medico soltanto, sono magistrato, e se mi perviene la minima lagnanza sul vostro conto, fosse anche per un mero atto di villania come quello di stasera, prenderò le debite misure per scovarvi e farvi filar via di qui. Uomo avvisato». Poco dopo la cavalcatura del dottor Livesey giunse alla porta ed egli se ne andò a cavallo. Ma il capitano si tenne quieto quella sera e molte altre successive. Thank you.